Sottotiro. Storie di mafia e antimafia di Roberto Galullo. Miscelati a terreno vegetale c'erano anche residui di amianto, scarti di lavorazioni edili e perfino rame e pezzi di ferro da stiro. Questo materiale triturato era stato utilizzato per realizzare una strada a scorrimento veloce per il collegamento del Vallo di Lauro con l'autostrada 30 Caserta-Salerno, principalmente nel tratto del comune di Palma Campania. A scoprire quanto era stato realizzato, indagini dei carabinieri di Nola e della DIA di Napoli, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia Partenopea. Investigazioni partite nel 2009 che hanno portato all'esecuzione di 14 arresti e alla notifica di 11 obblighi di dimora. Il punto di riferimento dell'intera organizzazione criminale, secondo i PM, è Antonio Iovino, imprenditore già condannato per la sua partecipazione al clan camorristico capeggiato da Mario Fabbrocino. L'uomo, grazie a numerosi prestanomi, avrebbe avuto la possibilità di lavorare in una posizione dominante ed estremamente concorrenziale nel campo dell'estrazione e della fornitura del materiale di costruzione del Nolano. Gran parte dei rifiuti, pericolosi e no, ammassati all'interno delle cave a lui riconducibili, erano miscelati al materiale per riempire le strade. Pratica che ha posto un serio problema non solo per la tenuta strutturale della strada, ma che ha anche messo a serio rischio la salute e l'ambiente. Nell'ambito dell'operazione sono stati sequestrati 2,2 km dell'asse viario, su un totale di circa 8 km previsti dall'iniziale progetto. Ricordiamo, per chi se lo fosse dimenticato, che quello di mischiare rifiuti di ogni tipo e catrame è un vecchio vizio dei clan, e non solo dei clan, e non soltanto nel sud. Rammento la Calabria solo per fare un esempio, ma anche la Lombardia, come ha recentemente svelato la procura di Brescia. Grazie in regia Filippo Oreggi e in studio Luca Cremonese.